La lotta, i massaggi, la pesca. Per quanto concerne la lotta che abbiamo concesso, essa non deve essere praticata per vana competizione, ma per liberare virile sudore. Non ci si deve sforzare in vista dell'abilità tecnica e dell'ostentazione, bensì per raggiungere i benefici che derivano dalla lotta in piedi, nel divincolarsi con il collo, le mani e i fianchi. Un tale sforzo, infatti, è senz'altro più decoroso e più virile, si accompagna a un dignitoso vigore ed è praticato allo scopo di acquisire una salute benefica e utile. Gli altri generi di sforzi ginnici denunciano invece la ricerca di posizioni indegne di un uomo libero. Bisogna sempre mirare alla giusta misura. E come è cosa ottima che gli sforzi fisici precedano i pasti, così è cosa pessima, estenuante e fonte di malattie lo sforzarsi oltre misura. Non bisogna né essere completamente inattivi né affaticarsi esageratamente. Come abbiamo già spiegato a proposito del cibo, così ugualmente in tutte le cose e in ogni circostanza, non ci si deve volgere alla voluttà e a uno stile di vita licenzioso, ma neppure al suo contrario, cioè all'intransigenza. Si deve invece ricercare ciò che è a metà tra questi due eccessi, una vita armoniosa, saggia e immune da entrambi questi mali, la voluttà e il rigore. Pertanto, come abbiamo già detto sopra, il fare le cose da sé è una palestra di modestia, e così pure il mettersi da soli le scarpe, il lavarsi i piedi, nonché il massaggiarsi da soli dopo essersi unti d'olio. Tuttavia, anche il ricambiare chi ci ha fatto un massaggio con un uguale servizio è una palestra di giustizia comunitaria, come pure il dormire vicino a un amico malato, il servire chi è invalido e l'assistere chi è nel bisogno. Abramo, dice la scrittura, offrì ai tre un pasto sotto l'albero e stette accanto a loro mentre mangiavano. Anche la pesca è cosa buona, come fu per Pietro, purché le occupazioni necessarie, ossia l'apprendimento della dottrina del Logos, ci lascino tempo libero. Ma la pesca migliore è quella di cui il Signore fece dono al suo discepolo, quando gli insegnò a pescare gli uomini, come si pescano i pesci nell'acqua. Esposizione sommaria del miglior stile di vita. Contro il lusso e la voluttà. Non bisogna abolire del tutto l'uso di ornamenti d'oro e di abiti delicati, ma bisogna mettere un freno ai desideri irrazionali, affinché essi non ci tengano in loro potere e, afferratici per la grande rilassatezza dei costumi, ci trascinino in uno stile di vita fatto di mollezze. La voluttà, infatti, se si gonfia fino alla sazietà, è capace di agitarsi, di recalcitrare e di far cadere a terra il suo cavaliere, cioè il pedagogo, il quale però, di lungi tirando le redini, guida e conduce alla salvezza questo cavallo umano, ossia la parte irrazionale dell'anima, che come una bestia si accanisce dietro ai piaceri, alle brame vergognose, alle pietre preziose, all'oro, alle vesti pregiate e ad ogni altro lusso. Soprattutto, dobbiamo tenere bene a mente ciò che fu santamente detto. Abbiate una buona condotta in mezzo ai pagani, affinché, quando parlano male di voi considerandovi malfattori, vedendo però le vostre opere buone, giungano a render gloria a Dio. Norme di sobrietà per l'abbigliamento. Il pedagogo, dunque, ci concede di indossare una veste semplice di colore bianco, come abbiamo già detto più sopra, affinché, abituandoci a ciò che è prodotto dalla natura e non agli artifici della tecnica, respingiamo ogni cosa ingannevole e falsificatrice della verità e abbracciamo invece la semplicità e l'unità della verità. Biasimando un giovane dalla vita lasciva, Sofocle dice: «Ti adorni di vesti muliebri». Infatti, come al soldato, al marinaio e al magistrato, così anche all'uomo saggio si addice un abito senza stravaganze, decoroso e netto. Perciò anche la legge stabilita per mezzo di Mosè, tra le regole concernenti la lebbra, respinge come impuro ciò che è variegato e macchiato e che è simile alle scaglie variegate del serpente. Egli vuole cioè che sia puro colui che non è più tutto adorno di colori variopinti, ma è interamente rivestito di bianco dalla cima della testa fino alla punta dei piedi, affinché noi, conformemente alla trasformazione avvenuta nel corpo, respingiamo anche dalla mente i sentimenti variopinti e maliziosi e abbracciamo con amore il colore della verità, unitario, senza doppiezza e semplice. Platone, eccellente in tutto e anche su questo tema zelante seguace di Mosè, approva quel tessuto che non costi alla donna saggia eccessivo lavoro. Il colore bianco, afferma, si addice alla gravità, sia nei tessuti che nelle altre cose. Le tinture invece non sono adatte se non per gli ornamenti di guerra. Perciò agli uomini pacifici e luminosi si addice il colore bianco. Or dunque, come i segni che seguono da vicino alle cause con la loro presenza significano, o più esattamente mostrano, l'esistenza della causa che li ha prodotti, ad esempio il fumo è segno dell'esistenza del fuoco e un bel colorito e il battito regolare del polso indicano che vi è salute, così anche tra noi un vestito del genere descritto sopra è segno della condizione morale di chi lo indossa. Invero, una vita casta è pura e semplice. La purezza è quello stato che prelude a un regime di vita puro e non contaminato con le cose turpi, e la semplicità è quello stato che consiste nell'eliminare ciò che è superfluo. Un abito resistente, soprattutto se è di lana grezza, custodisce il calore che è nel corpo, non perché l'abito stesso possieda in sé il calore, ma perché trattiene il calore che è nel corpo e che tende ad uscire, non offrendogli un passaggio. E se vi è del calore che viene da fuori, l'abito lo assorbe e lo tiene in sé, e così, scaldato da esso, scalda a sua volta il corpo. È per questo che di siffatte vesti ci si serve soprattutto in inverno. Tale è l'abito senza pretese. L'essere senza pretese, in effetti, è quella condizione in cui non si cerca il superfluo e si accoglie invece solo ciò che è sufficiente per avere il necessario, in vista di una vita secondo il Logos sana e felice. Consigli alle donne riguardo ai vestiti, agli orecchini e ai sigilli. La donna indossi un vestito semplice e serio, più delicato tuttavia di quanto si addica a un uomo, ma assolutamente non tale da doverne arrossire e non eccessivamente fluente per la sua morbidezza. Gli abiti siano inoltre adatti all'età, alla persona, al luogo, all'ambiente e all'occupazione. Il Divino Apostolo però ci consiglia, assai giustamente, di rivestirci di Gesù Cristo e di non darci pensiero delle concupiscenze della carne. Il Logos proibisce di far violenza alla natura forandosi i lobi delle orecchie. Perché infatti allora non forarsi anche il naso? Così si compirebbe ciò che sta scritto: come un orecchino nel naso di un porco, così la bellezza di una donna perversa. Insomma, chi ama abbellirsi con loro è evidentemente di minor valore del loro stesso e di conseguenza non è padrone dell'oro. E non è forse davvero assurdo considerare se stessi meno belli e di minor pregio della polvere di Lidia? Come dunque l'oro è insozzato dal sudiciume della scrofa e con il grugno rimeste il brago, le donne lussuriose sono dal lusso spinte alla deboscia e oltraggiano così con le sozzure del sesso la bellezza autentica. Alle donne il pedagogo concede di usare un anello d'oro, ma non per ornamento, bensì per sigillare in conformità alla cura dell'economia domestica ciò che in casa merita una particolare custodia. Invero, se tutti fossero educati dal pedagogo, non ci sarebbe neppur bisogno di sigilli, essendo ugualmente onesti sia i servi che i padroni. Ma poiché la mancanza dell'educazione impartita dal pedagogo contribuisce molto a rendere disonesti, siamo costretti a usare i sigilli. Le donne siano esempio di modestia, di sobrietà e di amore per il focolare domestico. Ma ci sono dei casi in cui bisogna attenuare il rigore. Ad esempio, talora si deve essere indulgenti con le donne che non hanno avuto la fortuna di sposare un uomo casto e che quindi si adornano per piacere al marito. Per esse il limite deve essere di cercare l'apprezzamento soltanto del proprio marito. Io per conto mio preferirei che esse non si dessero pensiero della bellezza fisica, ma piuttosto che attraessero i loro sposi amandoli con amore casto, il che è un rimedio efficacissimo e onesto. Se però essi vogliono rovinarsi l'anima, le mogli si propongano, se almeno hanno intenzione di essere persone caste, di placare delicatamente gli istinti irrazionali e le brame dei loro uomini. Bisogna che li sospingano a poco verso la sobrietà, abituandoli, passo dopo passo, ad una vita più temperante. Una condizione di vita rispettabile non si ottiene infatti con l'aggiunta di ulteriori pesi, ma con l'eliminazione del superfluo. Come si tagliano ai volatili domestici le punte delle ali, così bisogna tagliare alle donne le seducenti ricchezze, che ingenerano in esse presunzione oscillante e priva di fondamento, nonché vani piaceri. Per cui le donne, ammaliate da queste cose, sovente volano via dal focolare. Perciò bisogna tenerle a bada e legate al giusto ordine, incatenandole con un saggio pudore, affinché non fuggano via dalla verità in preda all'arroganza. È bene dunque che i mariti, che abbiano riposto fiducia nelle proprie mogli, affidino ad esse la gestione della casa, come ad aiuti donati loro per questo scopo. Se poi fosse necessario mettere sotto sigillo alcune cose per sicurezza, anche a noi uomini il pedagogo concede di avere un sigillo, ma solo nel caso in cui ci troviamo a svolgere occupazioni pubbliche o a sbrigare altre faccende in campagna, o anche quando spesso siamo senza la nostra moglie. Ma tutti gli altri generi di anelli vanno eliminati, poiché, come dice la scrittura, l'ornamento d'oro per l'uomo saggio è la sua educazione. Mi pare invece che quelle tra le donne che vanno in giro cariche d'oro abbiano paura di apparire delle serve se qualcuno portasse loro via quell'oro e si trovassero senza gli ornamenti. Ma l'autentica nobiltà che risiede nella bellezza secondo natura dell'anima non giudica una persona schiava perché è venduta e comprata, ma perché ha pensieri non liberi. E a noi, che siamo alunni di Dio e da Lui siamo stati adottati, non si addice il sembrare liberi, ma l'esserlo. Ancora sui sigilli. Pertanto bisogna che tutta la nostra vita, lo stare in piedi, il muoversi, il camminare, il vestirsi e ogni cosa, sia resa il più possibile degna di una persona libera. Quanto all'anello, gli uomini non devono portarlo sulla giuntura del dito, questo è tipico delle donne, bensì sul mignolo, spingendolo giù fino alla parte iniziale del dito. Così la mano potrà compiere speditamente ciò di cui abbisogniamo e inoltre il sigillo trattenuto dall'articolazione maggiore non potrà cadere facilmente. Quanto alle figure sul nostro sigillo, esse siano una colomba o un pesce, una nave spinta dal vento o una lira musicale, come quella che aveva Policrate, oppure un'ancora di nave come portava incisa Seleuco, o infine, se uno è pescatore, si ricorderà dell'apostolo e dei fanciulli salvati dalle acque. Ma non dobbiamo portare incisi i volti degli idoli, ai quali ci è stato vietato di prestare attenzione, e neppure una spada e un arco, noi che perseguiamo la pace, né una coppa, noi che pratichiamo la sobrietà. Molti, tra i debosciati, portano addirittura incisi sui loro anelli i propri amanti o le concubine, quasi che non volessero avere neppure la possibilità di dimenticare mai le loro passioni erotiche con questa costante rimembranza della loro lussuria. Barba e capigliatura maschile. Per quel che concerne i capelli e i peli, la mia opinione è la seguente. Gli uomini abbiano il capo ben tosato, a meno che i capelli siano ricci, la barba sia folta, i capelli attorcigliati non siano fatti pendere troppo lunghi giù dal capo, come fossero trecce muliebri. All'uomo infatti è sufficiente avere una bella barba. Se poi uno si vuole tagliare un po' la barba, non se la rada però completamente. Sarebbe uno spettacolo vergognoso. Il rasarsi la barba fino alla pelle è stato vietato in quanto è qualcosa di simile alla depilazione e alla lisciatura. È così che il salmista, compiacendosi della lunga barba, dice: «Come l'unguento che cola sulla barba di Aronne». Con la ripetizione della parola barba loda la bellezza del volto e lo fa risplendere dell'unguento del Signore. Dal momento che il taglio dei capelli e della barba non si fa per motivi di bellezza, ma in funzione delle circostanze, bisogna tagliare i capelli in modo tale che, troppo cresciuti, non scendano fino ad ostacolare la vista, e ugualmente anche i baffi, se sono troppo lunghi, tanto da sporcarsi quando si mangia. Non bisogna però tagliarli con una lama, sarebbe maleducato, ma con le forbici da barbiere. Quanto alla barba, invece, che non crea alcun fastidio, la si deve lasciare in pace. Essa, infatti, conferisce al volto un aspetto venerando che colpisce chi lo osserva. Il sembiante di una persona, inoltre, se è tale da essere facilmente notato, è sovente come un pedagogo che induce a non commettere peccati. Coloro infatti che vogliono peccare senza essere visti hanno assai caro un aspetto anonimo e non caratteristico, sotto il quale appunto si celano e, rendendosi simili a tutti gli altri, possono commettere misfatti senza essere riconosciuti e così godono senza vergogna dei loro peccati. Un capo con i capelli corti e tagliati con semplicità non solo rende l'uomo più venerando all'aspetto, ma dispone il cranio ad essere difficilmente soggetto a disagi, abituandolo ad affrontare il freddo e il caldo, dei quali quindi allontana i danni. Una capigliatura lunga invece li attira a sé come una spugna e reca al cervello il danneggiamento perdurante dovuto all'umidità. Capigliatura delle donne e uso delle parrucche. Le donne poi si accontentino di pettinarsi i capelli sì da renderli più morbidi e si leghino la chioma alla nuca senza ricercatezza, per mezzo di un modesto fermaglio. In tal modo, con semplice rimedio, accrescono la genuina bellezza delle caste chiome. Gli intrecciamenti dei capelli, invece, come quelli delle prostitute e le chiome legate in trecce, oltre che rendere le donne di sgradevolissimo aspetto, rovinano i capelli, poiché li strappano con quelle perverse trecce, per cui queste donne non solo non si toccano la testa per timore di guastarsi la capigliatura, ma anche l'ora del dormire è attesa da esse con angoscia, per paura che nel sonno rovinino, senza accorgersene, l'apparato della loro pettinatura.